questa nave chiamata musica, né comandanti né marinai. Noi navighiamo senza la bussola, come pirati dei sette mari. Qualcuno sogna l'America, parte da Genova e va a Sanremo. Qualcuno prega per la sua anima, qualcuno è un genio, qualcuno è scemo. E guardaci se pure tu, un bel sorriso per la stampa e per la TV. Ma chi è quello che saluta? Non me lo ricordo. Questa nave chiamata musica, io con gli amici ci partirei. Qualcuno ride, qualcuno vomita, quante carezze che ti farei. Su questa nave transoceanica, nemmeno l'ombra di un armatore. Qualcuno scende, qualcuno sale, ma ognuno lascia la sua canzone. E guardaci se pure tu, un bel sorriso qui sul ponte senza la TV. E il vento ci accarezza, non ci lasceremo. Ti accarezza, il vento non cancella, non ti scorderò mai più. Sogna l'America, parte da Genova e va a Sanremo. Qualcuno prega per la sua anima, qualcuno grida ce la faremo. E guardaci se pure tu, un bel sorriso a tutti quanti per la mia TV. Vento ci accarezza, non ti scorderò mai più. Non ti scorderò mai più. Vento ti accarezza, il vento non cancella.